Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai come forever. Il profilo del Premier è il profilo di una persona, a mio avviso, che non ha una visione generale, strategica, che talvolta è subalterno ai suoi collaboratori quando sono fortemente decisi. Subalterni a una donna bella e decisa siamo quasi tutti noi maschi, ma lui lo è. Naturalmente è inutile non dirci sì. Che il riferimento era Maria Elena Boschi. Ma assolutamente sì, cioè è evidente, mi è scappata la battuta, non avrei dovuto scriverla, ma è evidente che è una cosa notissima. Che t'ha fatto bella amore, gioia primitiva, vista perdiva, vita piena, giorni e ore, batti cuore. Noi maschi che abbiamo una maschera decisionista e forte, quasi sempre, Mirta, e tu lo sai, nel rapporto diretto e privato mostriamo un'enorme fragilità con le donne belle. A me mi è capitato 1-0 subalterno nella mia vita. Capito, Corradino Mineo, noi uomini siamo fatti così. Abbiamo una passione sconfinata per il calcio. D'acqua cristallina, come una finestra che mi. Siamo succubi del calcio. Siamo schiavi del calcio. E anche del viaggiare. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Calda di scirocco e fresca come tramontana, tu come la fortuna, tu così opportuna, mentre da lontani stai come forever. È venerdì, cari amici, è venerdì, sono le 6:32 minuti e Corradino Mineo è andato da Mirta Merlino all'area che tira a raccontare che noi uomini siamo così di fronte a una bella donna, siamo tutti un po'... Brutto cretino d'un Milan. Appunto, mi sembrava che mancasse una chiosa. Una chiosa che se fossi tua moglie quante botte ti darei. E poi mancava il pezzettino. Brutto cretino d'un Milan. Mancava. Allora, è venerdì, cari ascoltatori, è venerdì e allora siamo pronti qui con Lorenzo Nespoli in redazione, con Carmelo Lauricella oggi in regia, il nostro alpino Peter Bescapè è stato rottamato proprio nel giorno in cui c'è un parroco che dice che non si può entrare in chiesa col cappello e neanche col cappello degli alpini. Ci sono gli alpini, non so dov'è questa parrocchia, adesso mi informo, c'è un giornale che lo racconta, gli alpini si sono ribellati al cappello in chiesa vietato da questo parroco. Manco le penne nere si possono tenere in testa in chiesa, ma la chiesa poi dovrebbe pensare ad altre cose in questo momento, no? C'è il cardinal Bertone che è stato intercettato nel 2013 e rideva perché al Bambin Gesù arrivano 80 milioni dalla stabilità, al Gaslini di Genova, peraltro la sua città, solo 5 milioni, e quindi battiamo 80 a 5 i Gaslini, con i calcoli dei soldi, 80 milioni a noi e 5 a loro. Vabbè, insomma, poi si curano anche le anime, Allora, siamo qui, Io vorrei capire, non so, se io per esempio sono adesso vado a prendere un caffè, succuberrimo di due donne oggi, lo dico subito. Intanto Chiara Geloni, che saluto, la nostra Chiara. Buongiorno. Succubissimo, succuberrimo, come si dice? Succulento, come si dice? Ma non ha detto subalterno. Ah, subalternissimo, io sì. Subalternerrimo, assolutamente. Ma non è che è subalterno a te, Renzi? Sì. Renzi? Non è a che me? Si rifà. Non me lo sono mai chiesto. Non mi pare. No, non ti pare. No, no, vabbè. Di sicuro io non sono subalterna a lui. Adesso è scattata. Ah, vabbè, questo non c'era dubbio. È scattata la caccia subito al nome. Non lo so. Tu hai qualche sospetto, Chiaretta? No, io vorrei sapere cosa voleva dire Mineo, perché secondo me tutti hanno subito pensato a una cosa. Dai, su. Non voleva dire quello. No. Non voleva dire quello che no. Tutto il mondo ha pensato immediatamente. No. Lui si riferiva a qualcosa che è successo al Senato. Bah. Però l'ha detto in un modo non simpatico, perché certamente era un po'. Adesso indaghiamo. Fammi salutare la nostra grandissima altra donna di cui sono subalterno in maniera totale. L'Aurora, eccola qua. Ciao Aurorina, come stai? Buongiorno caro Mila, un caro saluto a te, alla nostra Chiara e a tutti i nostri amici alpini e non. No, subalterni. Parliamo di sottomissione, che mi piace molto di più. Il libro. No, però ti devo chiedere, cara Aurora, ma è vero, secondo voi, Aurora, comincia tu, siamo subalterni noi uomini, cioè appena vediamo una bella donna, cioè siamo schiavi del calcio, ecco. Schiavi questo. Della gleba testa alta, cantava qualcuno. Giro tanto di quella roba. No, però soprattutto nella storia politica italiana ho visto soprattutto tanti ego riferiti, tanti uomini. Che probabilmente scendono anche in politica per le loro difficoltà con il mondo femminile, tanti frustrati, e Renzi sicuramente molto sedotto magari dalle capacità della sua ministra migliore, cioè la Boschi. Però mi sembra talmente appunto narcisista, che ama soprattutto se stesso più che le donne. Vabbè. Comunque, insomma, sentite qua per esempio la De Micheli. Tu conosci, cara Chiara Geloni? In dolce attesa? Non sapevo. Lo sa tutto il Parlamento. Io non lo so. L'ha comunicato. Non abbiamo svelato nulla di così grave. La piddina De Micheli, sentite. Sì, ma non è normale che dentro una battaglia politica entrino ste cose qua? Ma è una cosa vergognosa. Ma se Mineo c'è qualcosa da dire al Presidente del Consiglio, dentro o fuori al PD non cambia. Ma gli parlerà di robe che riguardano la stabilità? Ma tira in ballo delle donne? Ma come si permette? Chiara Geloni, l'ha presa bene. Questo dicevo, no? Io credo che Mineo non abbia tirato in ballo delle donne, come diceva. Ma cosa ha tirato? Spiegaci, cosa avrebbe immaginato allora? No, adesso io non lo so se dobbiamo parlare per tutta la mattina. No, però dici, visto che hai detto che sapevi che cosa... Io non so niente, mi piacerebbe sapere, perché ovviamente, come credo sia umano, mi ha incuriosito questa strana missiva. Però Mineo parlava di incertezze strategiche di Renzi. Ma guarda che ieri ha fatto un'intervista, al Fatto Quotidiano, incertezze strategiche ogni volta che si trova di fronte a un problema di politica non contingente. E di una sua subalternità a una donna bella e decisa. Non è che subalternità non è una posizione del Kama Sutra, capito? Sì. aspetta che l'hanno recuperato. No, scusa, ecco subito. Ah no, il nostro Carmelo Lauricella è andato a recuperare. No, il servo della greba. No, cioè, quindi la subalternità non è una posizione del Kama Sutra. Questo effettivamente. No, è semplicemente che c'è qualcuna che comanda. Fai questo politicamente. E lui. Io penso che così, insomma, non mi sembra che Meneo sia il tipo che magari ci ha messo un po' di malizia, ma non è che si riferisce. Vabbè, quindi non si riferiva a questo. Tu dai questa interpretazione, ripeto, hai anche uscita infelice. No, certo. Visto che hai questa interpretazione, hai anche l'interpretazione sul nome della persona a cui pensava. No, quello no. Ragazzi, quello no. È la massoneria, no. Chi è sta bella donna? C'è la Lussana, sono due giorni. No. Cioè, la Lussana non è che sono tre giorni che si interroga come me, non dormendo, mi ritorco nel letto a capire se Berlusconi va o no da Salvini a parlare. Sono quattro giorni che non dormo, mi ribalto nel letto, dico Berlusconi andrà, Berlusconi non andrà. No, la Lussana invece sono quattro giorni, due giorni che si interroga su questa bella donna. A saperlo, ma perché ce ne sono di belle donne nel PD, anche la Geloni è una bella donna, appunto, no? Vedi che io ho detto ma non è detto neanche che sia del PD, cioè non è detto che non sia del va bene. Comunque mi scrive testuale in questo momento Irene, mandandoci anche dei baci, ha ragione Mineo, ieri ho reso subalterno un uomo alle mie bellezze, mi ha scritto vabbè, no, ma dai. Però non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Cioè No, soprattutto in una coppia la donna deve essere sottomessa all'uomo e come la Chiesa a Dio. Sì. E l'uomo però deve, come Gesù, essere pronto a morire per la Chiesa, nel senso deve esserci questa visione qua quasi mistica fra uomo e donna. Voi la buttate tutto sulla questa visione qui di subalternità, no? Ripeto, è sottomissione o niente. Vabbè, buttiamola, dai, che parliamo anche d'altro. Per esempio Salvini, questo uomo che non è certamente subalterno a nessuno, tantomeno a Berlusconi. No. Cara Aurora, oggi dice alla stampa il nostro Salvini e il vostro Salvini, più che altro, che lui è infastidito dal fatto che la sinistra gli ha rubato il simbolo della camicia bianca. Lui ama la camicia bianca, ha detto la rivoglio. Mi riprendo questo simbolo. Sta anche bene con la camicia bianca, c'è da dire, no? Nel senso, questo bel manzo padano. E a Bologna, Milan, ovviamente tu non verrai per non fare ombra a Salvini, anche no. Tu, giusto? No, io non ci sarò perché non mi sembra. Non vieni? No, non ho in programma di venire a Bologna. Sono stata invitata a mangiare il cinghiale. Volete il cinghiale? Ci può stare, però anche solo come cronista, come giornalista. Vabbè, ma ci sono i nostri inviati. Questa giornata storica. Ma storica di che? L'unione centrodestra. Ma storica di che? E come è storica, insomma. Geloni, ti sei persa questa giornata storica. Tu vai a Bologna. Ma vado a fare il biglietto immediatamente, perché di fronte alla storia. Di fronte alla storia, almeno vestiti bene domenica, insomma. Certo, non so cosa mettermi, infatti. Beh, è un fronte antirenzista dove lei, secondo me, potrebbe stare più che dignitosamente. Ma infatti, guarda che secondo me, Chiara, ti troveresti più spazio lì attualmente che altrove. Ma sai, non si fanno le cose solo per trovare spazio, sai. Vabbè, ok. Capito, però nel senso, trovare spazio mica per trovare una poltrona, perché ti ci trovi bene lì, no? Storica, dai, una giornata storica. Ma giornata storica di che, scusa Aurora? Che succede? Che succede? Facci capire. Perché da 4 anni Forza Italia si è snaturata sostenendo prima governi pseudotecnici imposti dalla Troica piuttosto che governi guidati direttamente da questo lo diciamo per accogliere bene Berlusconi domenica. A Bologna invece Berlusconi dice di venire perché non poteva restare indifferente alle pressioni dei suoi elettori, tra cui molti moderati, e quindi insomma potrà davvero essere una giornata nella quale questo fronte di centrodestra antirenziano si ricompatta. E tu di fronte, Chiara, di fronte al fronte antirenziano non ti smuovi neanche di un millimetro? Dicevo che, visto che la Lussana ha citato San Paolo parlando di mariti e di mogli, Io cito De André e dico: quello che non ho è una camicia bianca, quindi non posso partecipare a questa storica kermesse. Grazie dell'invito. Che non ci formalizziamo alle manifestazioni, ai cortei della Lega, a questi eventi di piazza, ripeto, non ci formalizziamo. Può venire descamisada, può venire con col bikini, può venire con sei comunque la benvenuta, Chiara. Né la camicia verde. Senti, magari Chiara, domenica come ci gira? Ci svegliamo. Se a me non va più il cinghiale e a te non va più di fare quello che devi fare, magari facciamo un salto a Bologna. Dai, intanto sentite Piazza Maggiore a mezzogiorno. Chi è che parla? La maglietta. Ma quando parla per... va bene. Quando la tua? No, la maglietta dell'evento Bologna 8 novembre. No, perché per un attimo liberiamoci e ripartiamo. Scusa minchino, e chiedo scusa tra l'altro all'onorevole Molteni, che ci sta ascoltando, il marito della Lussana. Allora ti è scemato l'umore? Ha fatto un'esclamazione. No, qui davanti al panettiere per comprare il pane. Ma come il panettiere alle 6:44 del mattino? Sì, apre. A Cantù i panettieri, non so, dalle tue parti, alle 7 mi aprono, sono qua a comprare il pane. Da quando io passo a Milano alle 5:20, davanti al panettiere c'è sempre le luci accese perché sta facendo il pane, giustamente. Eccola, il panettiere. Salutiamo tutti i panettieri. Sentite qua Salvini, con che nerbo sceglie per Roma il candidato sindaco? Se dovessi scegliere fra questi sei e non uscisse la settima opzione, che è un romano normale, senza che sia un grande nome, il cantante, l'attore, la ballerina, il manager, una persona normale, un commerciante, un medico, un farmacista, io fra questi sei scelgo Giorgia Meloni. Tra quei sei non so quali fossero i sei. Geloni, ti va bene? Geloni, assolutamente, Meloni. Una quasi omonima. Appunto. È bene che ti stai riposizionando già un po' a destra. No, la Meloni è brava, secondo me, mi piace molto. Il suo genere, voglio dire, ma è una politica che fa politica sul territorio, un po' come a volte anche nei casi migliori anche i leghisti sono capaci di fare. È una politica che secondo me può andar bene. Guarda adesso diamo il traffico, perché secondo me Aurora c'è margine che venga domenica a Geloni. Già oggi perché c'è la vendita della benzina senza le accise. Sì. Quindi oggi c'è una sorta di mobilitazione importante. Sì, mi hanno detto a Cinisello Balsamo, la benzina. Date la benzina a Cinisello Balsamo, la Lega fa pagare, cioè regala la benzina. No, non è che la regala, te la fa pagare al prezzo, diciamo, tax free, cioè senza. Cioè il resto chi ce la mette? Ci sarà un'autotassazione, no? Di chi il benzinaio, il benzinaio, la benzina la vuole pagata tutta, no? Ci sono anche delle associazioni che aderiscono alla manifestazione di domenica a Bologna, dal settore armiero, gli artigiani, piuttosto gli agricoltori e i benzinai. Non so se avete capito, tutta Italia oggi a Cinisello Balsamo per la benzina tax free della Lega. Così si offrirà il carburante al costo reale. Poi questa è la prima scarpa, poi vi diamo la seconda scarpa. Te lo ricordi il sindaco di Napoli? Vabbè, dai, Achille Lauro, dai, andiamo al traffico, poi rientriamo. Milan, a me non interessa il traffico, mica il tuo pal. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Allora dai, è saltata la nostra segreteria telefonica, la recuperiamo lunedì. Cos'è sta storia, Aurora? Dai, la benzina tax free. Ma voglio dire, ma tu hai questa visione qui, sei fermo a Achille Lauro, ma non lo so, mi sembra una mossa un po' elettorale, cioè vi do un po' di benzina così la Lega è bella e brava. È un modo per stare vicino ai benzinai, tu sai che hanno chiuso tanti benzinai perché non c'è più margine. E allora, sono dei lavoratori, dei produttori, dei commercianti, degli artigiani che domenica vanno in piazza e si comincia oggi con, diciamo, è una sorta anche così di manifestazione, diciamolo pure, di contrapposizione al governo delle tasse, allora si parte così anche in maniera provocatoria. Capito, dei, Chiara? Se non vuoi andare a Bologna, però un salto a Cinisello Balsamo oggi. No, mi dispiace, non sono all'altezza di rispondere, non ho iniziative da propagandare in questa trasmissione. No, vabbè, ma infatti per questo vai alle iniziative degli altri, vai a quelle degli altri, ce n'è già una bella pronta sto weekend. Sì, infatti, ma adesso me lo segno. Attenzione però, devo dire questa cosa, noi da qualche giorno abbiamo iniziato questa politica del selfie mattutino, non siete obbligate a farlo, a nostra Veronica Gentili ha lanciato questa iniziativa, però se volete fare, non so, vuoi fare una foto al panettiere, alle ciabatte, e ce la mandate gentilmente su Twitter. Non mi aprono ancora. No, hai bussato e niente. Stanno alle, no, però non glissate su questo. Se volete mandarci un vostro selfie su Twitter, lo mettete coinvolgendo anche il mio profilo, Alino Milan, tanto lo conoscete, o 24 Mattino, o se volete fare una foto, non so, di una sedia di casa vostra. Ma perché Giuseppe, sei perso anche tu in questo narcisismo edonista? Ma è una cosa simpatica. Narcisismo edonista è una cosa simpatica per coinvolgere i nostri ascoltatori. Ti faceva un giornalista un po' più solido. Abbiamo già un premier twitterolo. Ma cosa c'entra il narcisismo edonista? Vabbè, ti facevo un giornalista più solido, più sicuro dei miei mezzi. Partire anche dalla modernità liquida, sei molto Bauman anche te. Anch'io. Ecco, sei molto Bauman, non te l'avevano mai detto. No, sono molto Zygmunt. Non me l'aveva mai detto nessuno. Allora, qua però arriva una persona che sistema tutti. Sistema soprattutto i romani. No, cara Geloni, già vi abbiamo mandato il prefetto di Milano per vedere come si fa in 448. Sapete la prima cosa che ha fatto, tra l'altro, il prefetto Tronca? L'ho letta oggi sul Corriere. Ha fatto spostare la scrivania di Marino perché è esposta alla finestra a possibili cecchini. ma il prefetto Tronca, ma che timore c'ha? Che ci sia un cecchino che lo fa fuori? Questo sta lassù sulla rocca del Campidoglio. E evidentemente c'è una linea di tiro da 2 chilometri. Giuro, ha fatto spostare la scrivania perché è dalla finestra. Quindi Marino, manco questa giusta l'aveva fatta. Era il posto della scrivania. Era pure esposto a un cecchino. Il John Fitzgerald Marino. Mamma mia, ragazzi. Vabbè. Allora, che dobbiamo fare? Della mobilitazione record, oltre 150 iniziative sul territorio, hai già parlato. Della Lega, sì. Si concluderà tutto a Bologna. Il 7 novembre, Esatto, l'8 a Bologna, in Piazza Maggiore. 8 Bologna, ore 12, Piazza Maggiore. Ma quando parla Berlusconi, tu esulti, applaudi, cosa fai? Ascolterò molto molto attentamente, quando faccio anche questa delegazione. Di Forza Italia, vediamo chi arriva, chi non arriva, siamo curiosi, ma noi siamo gente ospitale. Ma lo so. Però c'è uno che vi sistema tutti a Roma, è Beppe Grillo, che ha detto che se vinciamo al comune, ci saranno persone licenziate, ci saranno persone che verranno sistemate, gente che sciopererà, gente che verrà a protestare, bisogna fare insomma un po' di piazza pulita qui, sentite Grillo. Nell'immediato futuro, se governeremo questa città, saranno effetti collaterali molto pesanti, azzereremo tutte le amministrazioni, quindi avremo, i romani devono saperlo, che avremo scioperi, gente che verrà in comune a chiedere il perché, gente che perderà il lavoro. Hai capito, Chiaretta? Hai capito? Spero di non aver capito, perché a volte penso di aver capito invece. Guarda, se Grillo c'ha altro che rigore a porta vuota, c'ha proprio voglio dire, una cosa che basta spingere ed è gol. Ecco, non vorrei che la sciupasse così, ma che non la sciupasse, ma che non la volesse segnare, capito? Ma questo l'ho detto anch'io, dico, ma è ovvio che si candida minacciando licenziamenti. Brava, è ovvio che al Movimento 5 Stelle, contrariamente a tutto quello che vi diranno loro, conviene non vincere a Roma, ma magari fare una sconfitta onorevole con tanti consiglieri, perché se vinci a Roma e poi non riesci a governare Roma, perché nessuno riesce a governare Roma in questa situazione, questa è la mia premessa, e dopo sbatti il muso. Sono d'accordo con la tua analisi. Ecco, però vi vorrei in chiusura chiedere dall'alto della vostra conoscenza dell'inglese di aiutare i disperati cronisti della BBC che sono venuti ieri a seguire Mafia Capitale, e uno ha detto: scusate, come si traduce tapro come una cozza, letto nelle intercettazioni, e un altro ha detto infame frascico, come lo traduciamo? Ora, infame frascico, direi che Chiara Gironi ci può aiutare. Come infamous? Infamous? Oddio. Fresh. No, not fresh. È zuppo bagnato, no? Wet infamous. Ecco. Very wet infamous. Quello. Very wet infamous. E Aurora Lussana invece: ti apro come una cozza, che non è un'esclamazione. Verosimilmente si dice t'aver vendu. Si apre in due. Da però noi dobbiamo farlo capire anche a uno di Oxford, perché questo lo deve tradurre per la BBC, capito? Quindi ti apro come una cozza. Comunque, te che fa il filo grillino, ricordati che quando hanno vinto a Parma piuttosto che a Livorno non ha licenziato proprio nessuno, dai. Non ha licenziato nessuno. Ma lo dice per non vincere. Vabbè, invece spezza pollici, come si dice? Come in Bergamasco? No, guarda, anche aperto il panettiere, mi sono già passate davanti tre persone. Scusa, nell'operosa Brianza, vai a prenderti, Brianza, la pagnotta. Dai, vabbè. In Brianza la gente ha fretta. E allora niente, tutti a Bologna con la Lussana, ci sarà anche Chiara Geloni, adesso possiamo svelarlo, ha deciso di andare. Va bene, vi saluto, alla prossima e grazie. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici, dai che è venerdì, sono le 7:18 minuti. Aurora Lussana ci ha appena mandato due foto. Prima ho detto a lei, a Chiara Geloni, di mandarci le foto, i vostri selfie o quello che volete. Ci ha mandato due foto e tra poco le metteremo sul nostro profilo Twitter 24 mattino, o sul mio anche, Alino Milan, ovviamente ritwitterò tutto. Evviva, ma dai che è venerdì, che si sta concludendo la 131esima settimana decisiva per la abolizione delle province. Un po' meno entusiasmo perché è finita nel nulla, ma la 132esima secondo me ha quel non so che di decisivo che potrebbe in qualche modo regalarci qualche sorpresa. Vedremo. Intanto parleremo del terrore vero e proprio che c'è dopo l'esplosione, il crollo, diciamo, di un aereo russo, forse per una bomba, a Sharm el Sheikh, bloccati molti aerei, il timore che l'ISIS in qualche modo abbia già vinto con il terrore sparso tra i turisti e le compagnie aeree, soprattutto quelle inglesi, che bloccano i voli per Sharm. Parliamo di questo, della guerra al terrore. Avremo ospite Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri, con Oscar Giannino dalle 8:15. Parleremo di queste tematiche e anche di altre che andiamo a scovare dai giornali.

Era qui, c'era, ve lo giuro. Eccola qui, una pagina dedicata a Briatore. Flavio Briatore, mio figlio ha 5 anni, ma gli parlo da adulto. Ma chi se ne frega? Eccolo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Ladies and Gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Cardinal Giannino, Eminenza Milan, Eminenza Cardinale, tutto a posto nel suo attico. Che dice lei, con quante suore abita in 500 metri quadrati? È diventato uno sport nazionale, vivere con le suore, sì, questa almeno la giustificazione. Però negli attici. Dopo Bertone anche il Cardinal De Paoli. Belasio De Paoli, il nome già di Belasio. Vabbè, De Paoli. Che problema c'è? No, perché Belasio è un nome che riporta ad antiche tradizioni di famiglie nobili romane, vuol dire che c'è un sangue dentro che per secoli ha esercitato il potere. Se poi sotto veste laica o sotto veste di cardinale, come vedi, non cambiano i metodi. Vabbè, sempre gli attici sono. Il Cardinal De Paulis dice: vivo non in 450 metri quadri ma 250. Sono tutti diventati esperti al catasto, con suore comprese, però. E due suore, anche e lui. Due suore. Ma se me lo chiede il Papa, vado anche in un monolocale. Ma perché glielo deve chiedere il Papa? Cioè, un vertice della Chiesa, se crede in quello che dice, dovrebbe essere coerentemente, io non voglio dire sotto i ponti, ma non no, dire sotto i ponti no, perché io non viva esercitando la mia libertà nell'attico, che evidentemente è quello che è al centro della sua scelta di vita, me lo deve ordinare il Papa. No, deve stare in un modesto coso come tutti, senza che te lo ordini nessuno, se credi in quello che fai, se no puntini. E se no, come ci racconta il Fatto Quotidiano, agli istituti religiosi, questa non l'ho capita neanch'io, agli istituti religiosi il canone della RAI è ridotto con uno sconto. Eh sì. Ma perché? Ma come perché? Ma perché? Ma come perché? Ma perché? Ma come perché? Ma perché? Ragazzi, ma perché abbiamo il regime concordatario? Ma cosa c'entra il canone della RAI? Ma no, proprio lì sul canone della RAI. Certo, perché come vedi, Marcacco ha la tua linea di rigore. Lo Stato chiede a me, ma a loro no. Anche a me. Che da noi, cioè, a me come cittadino, non come Oscar. Però certo, loro sono cittadini diversi, come è noto. Ma perché agli istituti religiosi il canone scontato? Ma hai visto però che bella questa, la Lega degli Atei Agnostici Razionalisti, che fa tutto il conto di quanto ci costa l'anno la Chiesa Cattolica, 6.4 miliardi. Se tu facevi i calcoli, fuori onda Oscar era lì che faceva le somme. Ma allora sì, ci costa, scusami, questo. Ma scusa, che ci costi anche pagare per le messe durante l'orario di servizio pubblico. Sì. Capisci che paghiamo, da sorridere. Quanto paghiamo per le messe dei dipendenti pubblici? Sì, una bella No, è una cifra non troppo elevata, però paghiamo anche per quello. Credo qualche milioncino. Esatto, No, 426 mila euro forse. Però, 426 però la cosa più singolare è naturalmente questo allineamento di interviste, Alessandro, che c'è oggi sui giornali. Perché partiamo dal presidente della CEI, Cardinal Bertone, che Bagnasco. Perdonami, hai ragione, Bertone era quello di ieri, Bagnasco, che dice: cosa succede? Dice lui al giornalista, è colpa del diavolo. C'è qualcosa di diabolico. È colpa del diavolo. Dopodiché Luca... guarda che evocare il diavolo negli italiani subito instilla qualche timore. Ma no? Sarà quindi colpa buttalo lì, loro, diavolo, degli uomini, della chiesa. Dice no, la colpa è di un altro. Il diavolo. Luca Odevent, l'ex capo del gabinetto di Veltroni, agli arresti domiciliari, inizia il processo Mafia Capitale, rilascia una bella intervista al Corriere della Sera e dice... Sì, la colpa è dello Stato, però. Ma come la colpa è dello Stato? Sì, perché se lo Stato non paga i fornitori, come dire, in qualche modo trovano. Che tra l'altro il principio, cioè, dello Stato che non paga i fornitori, è una vergogna giusta che lui ha denunciato. Tu fai il politico e quindi devi risolvere e far pagare le amministrazioni in cui lavori nei tempi giusti. Non è che dici, siccome no, si paga tardi, rubo. Rubo. Ma, cioè, che è una cosa che quindi, non vabbè, si il può... diavolo e lo Stato. Il diavolo e lo Stato. Dopodiché. Intervista di Mantovani, l'ex vicepresidente Mantovani, della, sì, della regione Lombardia, che dice: ma no, momento, io non ho fatto niente, sono qua dentro in galera per colpa dell'invidia sociale. Ma è colpa dell'invidia, colpa dell'invidia vabbè, sociale. Oh, ragazzi, cioè, se il diavolo, l'invidia sociale o lo Stato ci mettono loro. Ma insomma, qualcuno che ogni tanto ammettesse di avere qualche fatto errori più o meno, forse sarebbe utile. Però, ripeto, se succede nella politica e nella Chiesa, vuol dire che è un problema generale italiano, eh? Guarda, infatti io do dopo il mio Oscar, perché oggi diamo l'Oscar, ma darò l'Oscar a uno che mette insieme tante cose oggi sul Corriere della Sera proprio su questo. Comunque, cari ascoltatori, 800 24 00 24, Oscar, mi sembra che ci sia un nuovo fronte sul quale magari coinvolge anche i nostri ascoltatori, visto che sono stati molto molto partecipi. Boeri Renzi. Sì, sì, sì. Perché Boeri ha reso noto questo piano che aveva dato a Renzi in accordo con Renzi, si sono visti due giorni fa a Palazzo Chigi. Boeri in sostanza dice: diamo 500 euro alle famiglie che hanno un 55enne in situazione di difficoltà, reddito minimo, e come prendiamo i soldi? Li prendiamo dalle pensioni più alte, sopra i 3.500 euro, facciamo una redistribuzione di equità sociale. Che male c'è in tutto ciò? A parte quelli che hanno la pensione alta, che diranno mi tocchi quello che la pensione. Si capisce da, per esempio, l'intervista di Taddei che c'è oggi su Repubblica, responsabile economico del PD, è che il governo non vuole ledere il portafoglio e la scelta elettorale di chi sarebbe colpito. Quindi è un problema, è una scelta politica. È una scelta politica. E va bene. Perché, in altre parole, è un po' singolare, per di più per un governo, un partito di sinistra, una manovra concepita esplicitamente con criteri di equità, cioè prendere da chi ha pensioni troppo elevate rispetto agli ultimi anni del sistema retributivo, ricalcolargliele solo per la parte che eccede una certa soglia e solo per quella, e dopodiché utilizzarla per espliciti fini di riequilibrio del welfare, esatto, che oggi va anche a chi ha redditi troppo elevati, mentre state di riconcentrarlo sulle fasce di chi come sta la peggio. Questione dei vitalizi, riequilibrare. Io capisco che in queste situazioni, e infatti Repubblica lo spiega molto bene con Roberto Mania, dice: è una questione di voti. Renzi ha detto no perché questo gli costa voti. Sposo la tesi di Mania. E va bene. Il problema è che c'è qualcuno in ogni riforma, non è mai a costo zero. Qualcuno ci dovrà rimettere qualcosa e qualcun altro ci guadagnerà qualcosa. È chiaro che se ci ascolta uno che ha la pensione da 3.500, che ho lavorato tutta una vita, dirà: ma come? Cominci lo Stato a tagliare, no? Sempre così, dicendo: comincino. Ma siccome noi nell'ambito a fare altro delle pensioni abbiamo cambiato integralmente il sistema, il problema è che se abbiamo levato ai giovani la possibilità di avere tutto quello che avevano le corti precedenti, e in più si aggiunge che ci sono milioni di italiani over 55 come giovani in condizioni di reddito che sono incapienti, non hanno negli 80 euro di sostegno, appunto, eccetera, allora non è che si può dire allo Stato: intanto anche nelle pensioni introduciamo criteri rispetto agli interventi che abbiamo già fatto. Sì, sì, sì. Ma infatti su questo, cari italiani, diteci come la pensate, diteci la vostra. Secondo me è una questione di equità. Se la risposta però a dire i vitalizi non si toccano è quella che ci ha dato, io lo dico con Gerardo rispetto, Gerardo Bianco, due giorni fa, che dice: ne parliamo solo noi, di noi decidiamo solo noi. Ah sì, e perché di noi cittadini devono decidere gli altri? Lo ma so, dai. Tecnicamente l'autodichia, purtroppo, l'autodichia, tutte le feste porta via. A proposito di feste, ma vedi che ti riprendono l'onomastico oggi? Giannino, no, perché l'onomastico, perché oggi Oscar è un equivoco. Perché secondo me, se io dico il santo, tutti pensano a un governatore. Oggi è Sant'Emiliano, ma non il governatore. No, non vorrei che. Della Puglia. Perché ormai è Sant'Emiliano, però non si tratta di lui. Poi attenzione, perché abbiamo appreso, c'è questa meravigliosa figura di Donevaldo. Don Evaldo. In queste carte. Don Evaldo Don Evaldo è già la settima inchiesta dall'inizio degli anni 2000 in cui c'è il suo nome che gira. Quindi non è proprio esattamente uno stingo di santo, come si suol dire. Però Don Evaldo aveva una preoccupazione, perché lui è domenicano e quindi parte dei soldi che raccoglieva nelle sue attività in giro improprie le dava al postulatore per i santi dei domenicani. Perché i domenicani. No, perché ho capito, c'è la graduatoria, è come il campionato di Serie A. Se i domenicani ne hanno meno dei francescani, si paga, diventano meno importanti, è chiaro. Vuole un domenicano. Ma com'è chiaro? Jukebox. Ma cosa ci sono? Le macchinette elettroniche per i diversi qua ordini. Ridiamo per non piangere. Ma caro, no, ma c'è da no, tra l'altro, vogliamo ricordare: noi oggi ci occuperemo con gli ospiti. Solidarietà. Scusami, una cosa che dicevi prima, tu, Alessandro. Solidarietà ai parroci italiani. Assolutamente. Io immagino già, perché lo so, è come lo conosco un pochino. Il mio parroco, Don Davide, immagino già che cosa gli succederà dentro lo stomaco. Poi magari lo incontrerò, dirà ma no, cercherà di dire però bisogna sempre credere, però sarà lì, io so che ci avrà le parole che gli usciranno dalla bocca, però solidarietà che si fa il mazzo tutti i giorni perché crede davvero, crede nella pastorale, crede di dare una mano alla società e poi legge nell'alto della gerarchia queste cose. Tra l'altro noi ci occuperemo di quello che sta succedendo invece all'estero, apriamo un po' anche gli orizzonti con gli ospiti. Città del Vaticano. No, quello che succederà, no, quello che sta succedendo in Egitto, dove c'è il terrore. Sì. La BBC questa mattina ha ribadito, secondo fonti di intelligence, c'era una bomba a bordo di quell'aereo russo caduto sul Sinai. È la tesi di Cameron, è la tesi di Obama. I russi sono molto arrabbiati. Gli egiziani, ovviamente, sono arrabbiati perché l'effetto sul terrore, sull'economia turistica è di nuovo una mazzata. Sono anni che ci provano. È una mazzata, però vuol dire già così. Se instillano il terrore nella nostra mente, vuol dire che hanno già quasi vinto. È perché se uno non prende più un aereo per andare anche solo a fare un viaggio. L'ipotesi, tra l'altro, è ovviamente è che ci siano delle falle nella sicurezza dell'aeroporto, per cui qualcuno della sicurezza mette valigie anche se non c'è uno a bordo, ancora più grave. Ancora più grave. Voglio però farti sentire una persona che è Beppe Grillo, perché qua abbiamo una teoria, io almeno una teoria, e cioè che secondo me il Movimento 5 Stelle non vuole in realtà vincere a Roma, perché vincere rischierebbe di fargli sbattere il muso. Ha detto che se vincono a Roma ci saranno tempi duri per tutti, licenziamenti, scioperi. Senti qua Beppe Grillo. Nell'immediato futuro, se governeremo questa città, saranno effetti collaterali molto pesanti, azzereremo tutte le amministrazioni, quindi avremo, i romani devono saperlo, che avremo scioperi, gente che verrà in comune a chiedere il perché, gente che perderà il lavoro. Gente che perderà il lavoro, gente che farà gli scioperi. Singolare. Questo è, hai ragione. Cioè, se uno pensa, gioca a perdere, perché uno come fa a votarlo? Lui potrebbe rispondere, però sono sincero, perché bisogna rivoltare la città come un calzino nei suoi apparati pubblici, quindi non intendo nascondere che faremo un'azione di risanamento. Non faremo prigionieri, cioè se arriviamo non faremo prigionieri per quello che quelli che sbagliano, ovviamente, questa è la linea. Quindi da una parte, quello che ti dico, sì, può venire il sospetto che è avanzato. Dall'altra, se uno le cose vuole cambiare, deve pure dirlo però. Non c'è dubbio, non c'è altrimenti dubbio. Finisci come lo deve anche, dice che la colpa è dello Stato se rubi tu. Insomma, io sono per cambiare lo Stato che non deve rubare lui, ma questo significa che ma in fondo io. Se Sabella dice da noi Roma è ingovernabile, se Sabella dice gran parte, alcuni, molti funzionari sono corrotti, cioè, e lui lo traduce, se arrivo io sappiate cari romani che come dire, non è che faccio gli inciuccioni, arrivo e faccio piazza pulita. Mi ha ricolpito oggi un'intervista su Italia Oggi, sempre dall'ex assessore dei trasporti di Roma Esposito, che dopo svelare nuovi particolari sull'ATAC di Roma, descritta testualmente azienda tentacolare cassaforte di illeciti, l'ATAC, dice in buona sostanza ciò che Grillo riprende, cioè che migliaia e migliaia di persone andrebbero buttate fuori. Quindi è così. Tra l'altro a Roma c'è la disperazione di tutti i cronisti della BBC. Io prima ho lanciato questo gioco. I cronisti della BBC al processo Mafia Capitale erano disperati a capire ma come si tradurrà frascico infame o ercecato. E ci sono delle proposte dei nostri ascoltatori. Ti che apro hanno in racconto. Due come una cozza. Ne voglio leggere una. Ne possiamo leggere esatto, una? Devi. Dov'è che è? Adesso l'ho persa. Ti apro in due come una cozza. Mamma, I'm going to open you in two parts like a muscle. letterale, ma c'è anche I open you like an ugly woman. Vabbè, però a me quello che colpisce, guardando su tutti i giornali le dichiarazioni raccolte dagli indagati, insomma in aula, sì, e dai relativi avvocati, c'è il messaggero che a un certo punto dice: sì, il tentativo di dedurre è quello, ma no, la nostra era una robetta alla matriciana, cioè tutti sono ad abbassare, per così dire, sì, è un processetto, è una robetta, cioè, ma è colpa del diavolo, è colpa del diavolo, come è colpa del diavolo. Intanto, caro Oscar, ci chiama Umberto da Lucca. Umberto, buongiorno, che ci vuole dire? Buongiorno. Buongiorno. Dica, buongiorno. Dica, Umberto, la sentiamo benissimo. Voi due sono vostro fan, eh? Va bene. Mi fa Ascolta, bene. Volevo fare una testimonianza a rispetto della Chiesa. Che io conosco un missionario che lavora in Brasile da quasi 30 anni. Sì. E lui doveva stare nella casa con i suoi colleghi missionari. Lui è andato a stare in un posto che io vi farei vedere com'è dura, come sono stato a trovare. Quando ho visto Bertone che è andato al funerale di Ivan Andreotti con la Mercedes e l'autista, mi è venuta la rivolta. Cioè lei, Umberto, sta dicendo quello che dicevamo prima con Oscar, cioè che la base della Chiesa poi è la prima, che è fatta da uomini che secondo noi si ribellano per primi a vedere che i vertici fanno queste cose. Umberto, la ringraziamo. È il momento degli Oscar? È il momento degli Oscar. Perché io lo voglio dare. Allora, prima dicevi, caro Oscar, appunto, tutte queste cose. Oggi Ernesto Galli della Loggia fa un lungo editoriale che io sposo dalla prima all'ultima parola, a dire che da decenni in Italia nessuno si occupa di cosa si insegna a scuola, come si insegna a scuola, del fatto che non si può più bocciare a scuola, non c'è più disciplina a scuola, la scuola è allo sbando dal punto di vista dell'interesse politico. E poi ci stupiamo se crescono giovani che si formano a scuola in un paese di ladri e truffatori. Hai perfettamente ragione, fai bene a indicarlo, perché è un tema importantissimo. Ma insomma, quindi l'Oscar a lui, a Galli della Loggia. Ricordo a tutti che lo Stato ancora non paga i supplenti a tempo, quelli di istituto, abbiamo preso in questi giorni, e la cosa mi ha amareggiato, perché dopo tu capisci che, come esempio proprio di quello che dice Galli della Loggia e di quello che ricordi tu, un anno e mezzo a parlare della nuova riforma, credendo che almeno risolvevamo questo problema, e invece il supplente dell'istituto, che adesso paga direttamente il MEF e non più i provveditorati locali, vengono pagati più lentamente di prima. Peccato, perché è così che si distrugge anche la voglia e la capacità di trasmettere i valori poi di una comunità. Allora, io invece il mio Oscar lo do a un'altra bella espressione oggi di faccia di tollismo, perché io trovo che è improprio scegliere giorni come questi, perché il cardinale vicario di Roma, tornando allo stesso punto, il cardinale Ballini, rilascia interviste come quelle che ci sono oggi, in cui dice: basta a Roma con gli incompetenti. Forse guardate un secondo dalla vostra parte del Tevere, con tutto che avete ragione, però forse in questi giorni almeno cardinale vicario sospenda per due giorni. Sì, perché se ci dice incompetenti ci viene il dubbio che forse dovrebbe parlare anche dei suoi. A proposito, ma tu sai che poi andiamo in pubblicità, sai cosa ha fatto il prefetto Tronca come prima decisione? Ha spostato la scrivania dell'ufficio, perché ha detto: è esposta alla finestra e Marino rischiava i cecchini. Questi sono naturalmente travestimento di un ragionamento di maniaci della sicurezza. Io invece, sia che tutti sappiano che, a cominciare da dov'è la scrivania, si cambia. Cambiamo la scrivania, ci sono i cecchini. Tu lo sai che il motivo fondamentale di cui si occupava Mussolini era all'inizio la posizione della scrivania nel lungo salone, quindi questa cosa della scrivania è in testa ai funzionari pubblici italiani. Poco da fare. Parliamo invece del terrore che c'è a Sharm el Sheikh, e non solo, in tutti noi, se ce l'avete. 800 24 00 24, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Salmoiraghi e Viganò. Le 8:39 minuti, anzi 8:40 minuti, caro Oscar. Eccoci. Siamo qui. Allora, vogliamo cercare di capire se c'è della paura, del terrore, anche per quello che sta succedendo a Sharm el Sheikh, quello che è successo purtroppo, 224 morti ci sono per un aereo russo caduto. Anche perché poi è una località dove tradizionalmente da molti anni gli italiani vanno A Natale per esempio, e non solo a Natale, insomma. E ci sono voli sospesi. La BBC oggi ha detto dalle nostre fonti, fonti britanniche, è sempre più certo che ci sia stata una bomba a bordo nella stiva. Quindi compagnie come EasyJet, Lufthansa e così via hanno sospeso i voli. Allora, noi abbiamo il senatore Benedetto Della Vedova, che è il sottosegretario agli esteri, con noi. Buongiorno, buongiorno Della Vedova. Ben trovato. Siamo anche collegati con, credo, Sharm el Sheikh, dove c'è Roberto Preatoni. Buongiorno Preatoni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dobbiamo raccontare, insomma, suo padre Ernesto è colui che ha creato un impero anche immobiliare proprio a Sharm el Sheikh, direttore generale di Preatoni Real Estate. E lei si trova a Sharm el Sheikh, intanto ci dica se avete particolari in più, perché e come si vive lì questi momenti di angoscia, immagino. Ma io non vorrei fare il salmone, andare controcorrente. Allora, nel villaggio qua è tutto tranquillo, a Sharm tutto è tranquillo. Noi certamente abbiamo avuto dei problemi, ma relativamente solo a quei passeggeri che provengono con i voli EasyJet. Per il resto tutta la programmazione dei voli è regolare, perlomeno quelli che arrivano, che vengono portati nel nostro resort. La situazione è un po' al limite del paradossale, se mi consentite di spiegare il perché. Perché noi qui localmente, chiaramente questa è una tragedia e va approfondita sino in fondo, però sarebbe il caso di approfondirla prima piuttosto che non speculare, perché le notizie che abbiamo noi qua sono completamente diverse da quelle che compaiono sui giornali che provengono dall'area USA. E quali sono? Cioè, dica quali sono le notizie. Ma intanto voglio dire, era sin da subito chiaro che la rivendicazione dell'ISIS dell'abbattimento dell'aereo fatta diffondendo quel video, che poi si è rivelato essere un falso, e dicendo attraverso il lancio di un missile che poi si è verificato non esserci mai stato. Quindi per quale motivo dicono adesso che hanno messo una bomba, quando all'inizio abbiamo detto che invece avevano messo un missile? E poi localmente noi continuiamo a ricevere delle notizie che le analisi che hanno fatto sino adesso, chiaramente, no? Sui rottami di coda e sui cadaveri, utilizzando gli strumenti chimici per verificare la presenza di esplosivi, erano negative. Lo so, però qua Preatoni, cioè, e Oscar, come la mettiamo? Nel senso che quando le autorità britanniche intervengono e dicono sospendiamo i voli, e quando la CIA, Obama, parla di possibile bomba, Cameron incontra il Sisi e dice, a quanto risulta a noi, è una bomba nella stiva, insomma. E il problema è che naturalmente siamo anche in uno scenario internazionale nel quale, senza voler andare fuori dal seminato, possono venire anche dei dubbi sul fatto che gli americani e i britannici abbiano l'interesse a far apparire i russi esposti alle conseguenze delle loro azioni in Siria, per così dire. Perché, in altre parole, anche secondo me, prima di avere la certezza che si tratti di un'esplosione a bordo dovuta a un bagaglio imbarcato bucando la sicurezza, perché di questo si tratta, l'ipotesi americana e britannica, bisognerebbe avere le prove. Altrimenti quello che succede è ovviamente che si induce i turisti che vanno lì a dire che non ci siamo e partiamo subito a essere terrorizzati. Chiaro che gli egiziani sono i primi che ci vanno coi piedi di piombo, perché è da anni che ogni volta che succede un incidente di questo tipo provano a ritirare sul turismo e poi ogni volta, boom, gli ricasca, che è praticamente il provento fondamentale della loro economia. Quindi su questa scena internazionale, quando si tratta di attentati, volo della Malesia in Ucraina abbattuta insegna, forse ci vorrebbe davvero un po' più di cautela. Le prove non ci sono, però sottosegretario Della Vedova, il governo può tranquillizzare gli italiani che devono andare a Sharm el Sheikh? Ma guardi, ieri l'ENAC, che è l'ente preposto alla sicurezza dei voli, ha richiesto alle compagnie italiane che operano lì un supplemento di sicurezza, di attenzione alla sicurezza, questo sì. Però ad esempio, già tra il caso delle compagnie inglesi, dove è intervenuto il governo, e il caso delle sussidiarie di Lufthansa low cost che volano su Sharm, le decisioni sono diverse, nel senso che le compagnie Lufthansa hanno deciso è una decisione autonoma loro, non è stata una decisione voluta dal governo tedesco, quindi è chiaro che il quadro al momento è di assoluta prudenza, ma sì, per quel che riguarda l'autorità italiana non c'è stato un divieto, diciamo così, imposto di andare. Il problema è che se le compagnie non partono è un problema, è un segnale, cioè, e la domanda che ci ponevamo è questa, della vedova: non è che già il fatto che instillino il terrore nelle menti di noi occidentali vuol dire che è un chiaro segnale che stiano in qualche modo vincendo i terroristi? Ma io non so se stanno vincendo, certo è evidente che stanno combattendo una guerra che è, al di là dell'episodio specifico che, come è stato detto, indagato a fondo e speriamo nel minor tempo possibile, è chiaro che è una straordinaria e potentissima guerra di propaganda che fa percepire anche le forze sul terreno di Daesh molto più potenti dal punto di vista militare di quanto probabilmente lo sono. Ricordiamoci, non che questo sia un elemento decisivo, come ha richiamato Giannino prima, non siamo più nel clima di spie della guerra fredda, però è chiaro che poi ci sono anche interessi nazionali che giocano. Gli inglesi sono anche molto sensibili al tema, perché ricordiamoci che le vittime sulla spiaggia di Sousse in Tunisia erano prevalentemente, quando c'è stato l'attacco dal mare, erano molto inglesi, erano prevalentemente inglesi. Questo potrebbe per esempio essere un elemento che induce a una maggior precauzione alle autorità inglesi. Senta, ma posso fare una domanda, visto che i giornali di ieri portarono la notizia di questa, di fonte americana, l'autorizzazione ad armare due dei nostri droni, i Predator. Quei droni armati, quando poi il processo di allestirli sarà effettuato, secondo le votazioni del governo attuale, dove, in che teatro dovrebbero o potrebbero essere utilizzati? In Iraq, dove fino a questo momento facevamo solo ricognizione nella coalizione aerea impegnata contro il Daesh o ISIS, come si voglia chiamare, o altrove, secondo lei? Ma guardi, al momento, anche per i tempi che non sono brevissimi per l'operatività dei nuovi mezzi, credo che possa dire che è una decisione in chiave di armamenti, non in chiave di teatri operativi immediati. Non in chiave di teatri operativi, poi è chiaro che la gestione delle nostre forze armate di quel tipo resta il teatro mediterraneo, però non credo che si possa dire che quella è una decisione finalizzata a un teatro piuttosto che a un altro. È chiaro che è una decisione per rafforzare il sistema di armamento. Tra l'altro, da Sharm, Preiatoni, lei può dire e rassicurare gli italiani a dire venite qui, perché sa, se poi non partono gli aerei come fanno ad arrivare? Cioè c'è il rischio anche che ci sia dal punto di vista commerciale e dal punto di vista economico una perdita stimabile. Beh, anche stimabile anche in quantità? Beh, assolutamente sì, voglio dire, il periodo peraltro è tra i peggiori, perché novembre-dicembre è un periodo molto importante per il turismo egiziano. Sicuramente questa vicenda, anche qualora dovesse risultare essere un incidente aereo, come io mi auspico, avrà comunque un impatto, perché oramai, voglio dire, comunque il danno è fatto. E noi, diciamo, gli italiani comunque possono raggiungere Sharm el Sheikh, perché la programmazione dei voli non è stata mutata. È mutata, è solo EasyJet che fa questo. Ci aspettiamo sicuramente una diminuzione, un impatto ce l'avrà. Se posso permettermi di aggiungere, visto che avete parlato di scenari geopolitici, questa vicenda realizza un paradosso, e cioè la persona che avrebbe più da capitalizzare su questa vicenda qui è Putin. Cioè, questa vicenda, qualora fosse veramente una bomba, darebbe a Putin ulteriore giustificazione morale. generale, sì, per sì, condurre le operazioni contro l'ISIS che sta conducendo. In realtà, quindi... Putin è l'unico che dice, in realtà Putin è l'unico che dice fate attenzione, fate attenzione, sta frenando, è vero che sta frenando, coglie secondo me un punto di fine e fa bene a dircelo perché accresce la nostra analisi, esattamente come dice secondo me, che fa pensare che oltretutto dietro questa presenza militare molto forte russa c'è dietro un ragionamento politico-diplomatico molto spesso e molto secondo me sottovalutato dal capitale occidentale in questi mesi, però questa è l'opinione mia. Le posso fare un'altra domanda, ma nel flusso generale comparato rispetto agli anni del trionfo della presenza italiana a Sharm el-Sheikh, io ho sentito, abbiamo sentito il ministro del turismo egiziano dire poche settimane fa qui a Milano ospite del Sole che dall'inizio dell'anno fino a settembre c'erano stati a Sharm el-Sheikh, Hurghada e così via circa 255.000 italiani, quindi con una media di 10.000-20.000 al mese, una punta di 40.000 ad agosto, ma in realtà questo flusso quanto è calato in questi anni in cui l'Egitto ha avuto tutte le vicende politiche di terrorismo che ha avuto rispetto agli anni d'oro? Ecco, anche qui si è verificato un paradosso, cioè nasce come mente esclusivamente italiana, sì, negli anni 90 il Sharm el-Sheikh, quindi con presenza al 100% italiana. Sharm el-Sheikh è stato costruito dagli italiani sostanzialmente. Negli anni, negli ultimi dieci anni, diciamo come è giusto, fu una visione di suo padre quando non c'era nulla, ecco, cioè è stato un vero pioniere, comunque chiusa parentesi. Sì. Negli anni, negli ultimi dieci anni, soprattutto la presenza italiana è andata scemando, le do un dato, in questo momento a Sharm el-Sheikh sono presenti 1200 italiani. Ah, solo 1200. Normalmente, solo 1200 italiani in tutta Sharm el-Sheikh. Normalmente in questi giorni noi ne avremmo avuti 3500 solo al Domina Coral Bay, solo al Domina Coral Bay. La presenza italiana nell'anno media può essere stimata al massimo tra il 5 e il 10%, quindi è calata notevolmente. E le ragioni sono duplici. Da un lato sicuramente la paura, il terrorismo eccetera eccetera hanno inciso sulla decisione, sì, degli italiani nella scelta della destinazione, dall'altra è figlia anche, ed è indubbio questo, della situazione economica in cui versa il nostro paese, un po' di crisi, insomma. Comunque staremo a vedere. Noi intanto vi ringraziamo, Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli esteri, e Roberto Preatoni da Sharm el-Sheikh, grazie per essere stati con noi. Oscar, c'è un ascoltatore che sicuramente ce la faremo, ci sono i complimenti, ti ringrazia molto un supplente Maurizio per il fatto che tu abbia ricordato questa cosa. E ci scrive un collega di Radio Vaticana a dire: guardate che conosco molti cardinali, vi assicuro che vivono in condizioni modeste, ma non c'è dubbio, saranno la maggior parte anche. Beh, diciamo quelli che non stanno in curia. Eccola lì, la zampatina. Dopodiché è chiaro che vanno sui giornali e fanno notizia quelli che stanno negli attici di 200, 250, sì, 300 sì, metri. Che dicono che la colpa è del diavolo. Che siano con le suore o senza suore. Federico da Treviso, buongiorno Federico. Buongiorno ragazzi, vi ascolto sempre volentieri. Dunque, la questione di Boeri e dell'Inps, sì, premesso sì, che ho sempre compreso che anche a causa della crisi economica i poveri in Italia sono cresciuti moltissimo di numero. Secondo, che il voto dei poveri vale come il voto dei ricchi. E che è opinione comune che... Lei pensa, Federico? Guardi che i ricchi allungano i soldi ai partiti. I partiti ne hanno bisogno. Ma poi è opinione comune che le super pensioni e i vitalizi andrebbero quantomeno rimodulati. Quindi? Perché il governo Renzi dovrebbe avere paura per i voti elettorale? No, ma i voti. Sono di più i poveri. Perché ha paura dell'effetto collaterale di voti? Ah, guarda, Renzi ha detto rischieremo di toccare le pensioni di 2.000 euro. Boeri ha detto non è vero, sono 3.500. Però le spiego perché. Si chiama, è un effetto intertemporale. Perché prima che i beneficiati, i poveri, vedano l'effetto del trasferimento, si determina molto prima l'effetto di chi è colpito dal prelievo. E chi è colpito dal prelievo vota, per così dire, incazzato prima. E siccome che si va a votare ogni anno... Bravo. lei capisce, Federico, questo effetto è proprio una catena intertemporale di effetti economici, spiega perché i voti non sono affatto tutti uguali. Allora, in conclusione, Oscar, ricordiamo che Cuore Denari alle 10.30 con Deborah Shani e Nicoletta Carbone torna sulla questione Sharm el-Sheikh, il timore dei viaggi, anche dei per contratti. Chi ha già prenotato, che devo fare se ho già prenotato un volo, è tutto a posto. si occuperanno di questo. Naturalmente continuate sul lato 24, perché le informazioni possono variare anche di ora in ora, e noi naturalmente terremo anche una grande finestra informativa sulle iniziative del diavolo che vuole mettere in difficoltà il Vaticano, il diavolo dall'alto. Vi terremo informati. Saluti dai cardinali, a lunedì. A lunedì. Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi...